Non è tanto un cambio di strategia quanto un'evoluzione del pensiero, le due cose sono sostanzialmente collegate, nel senso che la destra ha sempre sofferto molto il fatto di essere in un ghetto da cui si è infilata sostanzialmente partendo dalla Seconda Guerra Mondiale, e col fatto che tranne una sparuta minoranza le sue idee non erano interessanti per nessuno. Questa cosa a partire dagli anni 70 viene analizzata da alcuni pensatori di destra, principalmente da un pensatore francese che si chiama Alain de Benoist, che sostanzialmente è il più importante pensatore dell'estrema destra mondiale o comunque europea, il quale dice dovremmo riprendere la lezione di Gramsci sull'egemonia, cioè dovremmo riprendere Gramsci, però non un Gramsci comunista, a Giorgia Meloni, Alain de Benoist, a tutta la destra non piace il comunismo, non sono diventati veramente comunisti, dovremmo riprendere la teoria dell'egemonia, cioè dovremmo conquistare gli spazi culturali per portare avanti le nostre idee. E questa è una cosa, questo Gramsci light, questo Gramsci depurato, questo Gramsci passato in lavatrice sostanzialmente, è una cosa che è sempre piaciuta molto alla destra, se lo portano avanti da anni. De Benoist appunto viene sempre invitato a quasi tutti i convegni che ci sono, grossi convegni che la destra estrema fa, perché appunto è il loro pensatore più importante. Cosa succede? Succede che a un certo punto Giorgia Meloni è la prima di quel mondo lì che sostanzialmente riesce ad arrivare al potere, quindi questa cosa cerca di portarla avanti. E come la porta avanti? Occupando tutti quelli, mettendo sostanzialmente persone a lei fidate, persone che vengono dal movimento sociale italiano, in quelli che sono i vari posti di potere della cultura. A partire dal ministro Giuli, che citava proprio Gramsci in un suo libro. Giuli cita Gramsci nell'ultimo libro che ha fatto, se non sbaglio si chiama appunto Gramsci vivo. Lui è il primo che, cioè lui, come dire, lui da questo punto di vista è proprio l'archetipo perfetto, nel senso che viene dal movimento sociale italiano, ha frequentato gruppi di estrema destra, ha delle posizioni che sono, potremmo definire, evoliane da questo punto di vista, e quindi in un certo senso il paziente zero di quel, volendo, ce ne sono anche altri, c'è Giampaolo Rossi, direttore della RAI, c'è appunto l'ex Gennaro San Giuliano, l'ex Famigerato, ex ministro della cultura, ne possiamo trovare diversi da questo punto di vista. Vengono tutti, come dire, da un certo tipo di ambiente culturale, e appunto il discorso è metto qualcuno di fiato, qualcuno che la pensi come me. Tu nel tuo articolo citi anche alcune mostre, alcune iniziative culturali organizzate, appunto abbiamo citato San Giuliano che disse che Dante era di destra, era il padre fondatore del pensiero di destra, oppure una mostra su Tolkien, quindi insomma stanno utilizzando un po' anche quelli che sono archetipi in realtà non sempre, come dire, azzeccati, perché è già stato dimostrato ad esempio che Tolkien non era di destra, per portare avanti un discorso egemonico. Da questo punto di vista c'è sempre un problema, soprattutto riguardante Dante, ma in parte riguardante Tolkien, che la destra italiana, ma non solo lei, nel dopoguerra a pochissimi pensatori che siano presentabili, nel senso che se escludiamo un paio sostanzialmente quasi tutti sono gente che dice delle cose che sono aberranti. Qual è il problema quindi a questo punto? Quello di cercare di recuperare qualcosa o qualcuno che sia da un lato presentabile, penso appunto Dante ma anche Tolkien, che comunque credo sia uno degli scrittori più venduti al mondo, e adattarlo ai propri bisogni. Nel caso di Tolkien poi è una cosa particolare, perché Tolkien è una fascinazione della destra a partire dagli anni 70, risale quando adesso una persona che adesso poi ha lasciato il mondo della politica attiva, che è Marco Tarchi, un professore universitario, credo a Perugia, il quale organizza i campi Hobbit quando c'è ancora il movimento sociale italiano. Perché? Perché la destra si appropria di questa cosa, che il Signore degli Anelli lo vede non tanto come una cosa sua ma come una cosa interessante, e poi mano a mano tende a inglobarlo nel suo pantheon ideale. Se vogliamo fare questo discorso, oltre a Tolkien ci sarebbe pure la festa di Fratelli d'Italia, che si chiama appunto Atreyu, che è appunto un altro personaggio che viene dal fantasy, e un altro personaggio di cui la destra italiana si è appropriata, pur non... Michael Ende ad esempio veniva dal... era un simpatizzante dei Verdi tedeschi, non c'entrava niente con la destra, però come Tolkien, come Dante, fa parte di quegli scrittori, di quei personaggi che sono stati assorbiti dal mondo culturale della destra. Perché? Perché non avevano nessuno che fosse realmente presentabile da questo punto di vista. Non dimentichiamo nemmeno Salvini, che ascolta De André, però appunto la domanda che ti faccio è come questo sta avvenendo, cioè c'è stato un arretramento invece di quella che è l'egemonia della sinistra? Allora, secondo me occorre, come dire, sgombrare il campo da un malinteso, nel senso che la famosa egemonia culturale di sinistra di cui Giorgio Meloni accusa l'Italia di essere vittima da più di 50 anni in realtà è largamente mitizzata, nel senso che ci sono attori, ci sono registi, ci sono scrittori o editori che, come dire, che appartengono al mondo della sinistra, dopodiché poi se andiamo a vedere comunque la cultura democristiana comunque aveva un peso enorme, comunque un controllo politico enorme. Secondo me più che arretramento il discorso che è da fare è il fatto che per la prima volta si arriva qualcosa di nuovo, nel senso che per la prima volta, cioè mentre, come dire, la cultura sinistra è inserita comunque in un mondo presentabile, comunque se possiamo dire mainstream, la destra fino ad ora non c'era mai stata e per la prima volta cerca di entrarci, e quindi cercando di entrarci prende personaggi che non sono suoi e li adatta alla bisogna.